Ci sarà nell'organizzazione, ti ricordi, sul finire della stagione, anzi sull'inizio, perdonami, della stagione che si è tentato facendo un primo tempo e un secondo tempo con cambio? Allora, abbiamo fatto anche qui una sorta di ibrido. Diamo la possibilità di fruire dell'intero spettacolo, okay. Che comunque è uno spettacolo diverso tra set e set, non c'è una replica sostanzialmente, c'è semplicemente una pausa che generalmente facciamo per, non so, i tabagisti come me, per riuscire a reggere il resto della giornata o per bere un drink, insomma per avere un attimo di rilassamento. Però consentiamo anche a tutti coloro che per esigenze personali o logistiche possono fruire solo di un tempo dello spettacolo di accedere con un biglietto considerevolmente ridotto. Perché? Perché nella parte di wine bar facciamo un doppio turno di cena, quindi chi viene a mangiare alle 9, mentre alle 9 c'è il primo tempo, e va da sé che veda solo il secondo. Certo. E poi perché magari invece ci sono tante persone, non necessariamente diciamo in età ultra avanzata, ma anche giovani coppie con figli che quando vedono il tempo dalle 9 alle 10 è già ora di andare a scappare a casa, perché la babysitter sennò costa come un triplo in concerto. Adesso per dire due esempi. Le esigenze sono diverse. Esatto. Poi ci sono, non so, soggetti che arrivano in carrozza con dei destrieri e a una certa si trasformano in topi, la carrozza in una zucca. Insomma, le abbiamo considerate. Il pubblico è una bella varietà. È una bella varietà, quindi si è adattato anche in questo caso. Passiamo alla musica allora. Ah, scusami, questa cosa è solo nelle serate del sabato, cioè contestualmente ai concerti di maggiore appeal, che normalmente sono il sabato e talvolta il venerdì, ma comunque sono chiaramente indicati. Perché è solo in quel caso lì che ci aspettiamo un afflusso più consistente, e con questa formula questa formula ci permette, come dire, di spalmare un po' il pubblico nel corso dell'intero. Le giornate sono quelle tradizionali del venerdì, del sabato e del lunedì? No. Non più, è cambiato tutto. Allora, è cambiato tutto in ragione della sopravvivenza del luogo e delle opportunità che si sono venute a creare in questo momento, nella fase, diciamo, pandemica. Quindi non tutto il male viene per nuocere. Cos'è successo? È successo che il Dipartimento Jazz del Conservatorio di Ferrara ha rinnovato il parco docenti, mettendone aprendo delle cattedre vere e proprie con musicisti e docenti di ottimo livello, tra l'altro molti musicisti che avevano già in passato calcato il palcoscenico del Torrione. E non solo, avevano bisogno di aule perché è un problema annoso dei conservatori, ma in questo caso addirittura c'è una questione, un problema anche di ristrutturazione, cioè sono in attesa di uno spazio a loro destinato dove appunto poter collocare tutta una serie di insegnamenti che sono nuovi, perché il Dipartimento Jazz esiste da abbastanza tempo, ma adesso si è veramente strutturato e quindi ha bisogno di spazi che, come dire, conformi alle proprie necessità, e il Torrione è perfetto e quindi è diventata fondamentalmente la succursale o la sede del Dipartimento Jazz, o la succursale del Conservatorio relativo al Dipartimento Jazz per le lezioni non solo di strumento ma anche quelle, diciamo, fondanti per chi vuole approcciare, vuole conoscere questo linguaggio, che sono di musica d'insieme, di tecniche di improvvisazione, cioè quelle collettive e corali. E dal lunedì al giovedì il Torrione è del Conservatorio e la programmazione, diciamo, aperta ai soci e al pubblico è solo venerdì, sabato e domenica. Quindi rimangono i tre giorni della settimana che avevamo. E il giovedì? E il giovedì, solo in ottobre, come estensione dell'attività didattica del Conservatorio, okay. Ci sono 5 concerti che sono proprio dei docenti e degli allievi del Dipartimento Jazz del Conservatorio. Il primo è il 30 settembre, l'ultimo è, non mi ricordo più, l'ultima giovedì di ottobre, esatto, sono 5. E questa è, diciamo, una bolla che dura per il mese di ottobre. Esatto, dalla fine settembre fino a ottobre. Invece il venerdì e il sabato e la domenica sono sulla linea, il venerdì diciamo è sulla linea di quelli che erano i nostri lunedì sera, cioè artisti prevalentemente italiani, ma non solo, non necessariamente, presentazioni discografiche di emergenti, ma non necessariamente di emergenti, fauna locale, ma non proprio, cioè insomma, diciamo, un po' quello che presenta la scena che transita nel nostro territorio e talvolta in Italia, e dà spazio, molto spazio appunto ai non necessariamente super famosi ma ai bravissimi musicisti. In coda a questa serata ci sarà la jam session che facevamo il lunedì sera. Certo. L'unica differenza rispetto al lunedì sera che era che noi aprivamo con un aperitivo buffet, poi c'era il concerto e poi la jam session. L'aperitivo buffet in questo momento non si può fare, quindi ci sarà una normalissima cena che precede il concerto e successivamente la jam. E non sono tutti i venerdì, perché tutti i sabati e qualche venerdì ci sono i concerti, diciamo, principali alla stagione, main concert, chiamiamoli così, che, come vi dicevo prima, si sviluppano su un concerto diviso in due parti e diciamo hanno i nomi più rilevanti o perlomeno più noti al pubblico, mentre la domenica c'è una linea che è in parte ciò che facevamo, in parte un'estensione di quello che si è realizzato in passato, cioè tutti i musicisti dell'orchestra più tutti i musicisti di istantanea, che era un esempio di musica classica contemporanea, sì, si sono uniti in associazione e hanno ottenuto un finanziamento ministeriale. Questo finanziamento ministeriale gli consentirà, diciamo in questo trimestre, ottobre, novembre, dicembre, di fare concerti e laboratori tra Torione e Mercato Sonato di Bologna, e tutte le domeniche, come dire, è a fare loro. E lo facciamo in un orario diverso dal solito, proviamo a fare un tardo pomeriggio, un serale pre-cena sostanzialmente, 18.30, forse 19, adesso vediamo, comunque 18.30 ufficialmente. E c'è dentro sia la Tower, Jazz Composer Orchestra, la nostra orchestra residente, che istantanea, che una miriade di sottogruppi o di progetti che coinvolgono anche solo uno dei soggetti del collettivo dell'associazione, con altri musicisti anche esterni. In questo caso l'esibizione al piano superiore. L'esibizione ovviamente al piano superiore, mentre a seguire si farà una cena aperitivo, cioè una cena diciamo con una scelta molto semplice di, non so, charcuterie e via dicendo, accompagnata da selezioni musicali che cerchiamo di fare ripartire con l'idea di non cancellare quanto di buono c'era stato il lunedì sera, ma di tenerli in coda allo spettacolo domenicale, per cui vuol dire che fondamentalmente lo spettacolo si finirà intorno alle 20, da lì si scende nella zona del wine bar e chi vuole mangiare, bere qualcosa lo può fare in compagnia e continuare ad ascoltare la musica selezionata dagli amici che vorranno intervenire, ma soprattutto da coloro che ci hanno in tutti questi anni aiutato a far vivere questi momenti, tra cui William Piana. Ecco, è qui che ho salvato il posto, insomma. Guarda, il grande posto. Grazie. No, ma grazie a te, ma scherzi, è sempre davvero un piacere. È una situazione, tra l'altro, dopo una cavalcata di 4 giorni di concerti, almeno in ottobre, perché c'è anche il giovedì, e avere la coda dove ci si rilassa ascoltando la bella musica ben selezionata, alleluia, insomma. Dai, grazie. E lì ci sbronzeremo finalmente. Oh.